Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Dial Mace. Sì, le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. Dall'hard rock degli anni 70, la new wave of British heavy metal degli anni 80, che tanti eccellenti nomi ha lanciato nel firmamento rock, abbiamo ascoltato la canzone Street Fighting Gang dal disco del 1980 Wheels of Steel dei Saxon, storica band guidata dal cantante Bill Byford e tuttora in attività. Una formazione che ha lasciato un segno importante grazie al loro stile sonico. Secondo voi hanno ancora influenza sulle metal band di oggi? Beh sì, sicuramente hanno una grossa influenza. Saxon, Iron Maiden, Judas Priest, su tutti proprio puntano, fanno riferimento a queste tre band, e quindi sì, diciamo che effettivamente è un punto di riferimento per molte band. White Black Sun è il titolo del vostro disco, qual è il significato che sta dietro questa frase? Sì, White Black Sun significa appunto combattere il sole nero. Il sole nero io lo vedo come il male gratuito che si compie nei confronti degli altri, e che oltre a... Quindi un significato figurativo, ecco. Sì, e che comunque crea dolore, disagio per chi lo... Per chi c'è dentro, per ecco. Per chi c'è dentro e comunque non... non fa evolvere l'anima di chi lo provoca. Diciamo che è... Il combattere questo sole nero mediante la fede significa salvarsi l'anima, dai, diciamo. La particolarità di molte British metal band di quel periodo è stata quella di velocizzare le ritmiche rendendole se possibile più feroci. I Tank degli Ugly World, già membro per un breve periodo della formazione punk dei Damned, dà vita nel 1982 a questo combo che ha grosse influenze motorediane dovute alla produzione di Fast Eddie Clark, che in quell'anno collaborano per il debut album Field Towns of Hates, da quel disco la serrata Struck by Lightning. I'm tired of that, I gotta find someone to shoot at and get the guts to do. potenza e velocità che hanno ancora il loro impatto. Che ne pensate? Ah, ma parlo io da batterista. Randy. Allora, sicuramente la potenza è molto utile, ma ragazzi, la velocità quando i batteristi partono a 1000 è sempre bello vedere la gente sotto il palco che si sfascia a forza di pogo. Comunque sì, per me la velocità e la potenza hanno sempre il loro impatto grandioso, guarda. Tra le vostre maggiori soddisfazioni ci sono sicuramente da segnalare i recenti concerti a supporto di alcuni nomi noti della scena metal italiana. Come vi siete trovati con loro e che esperienza ne avete tratto? Sì, abbiamo suonato con gli Strano Officina ed è stata veramente una bellissima esperienza. E loro poi tra l'altro sono gentilissimi, oltre ad essere comunque un gruppo che ha fatto la storia del metal italiano, e su certo, questo non ci sono dubbi. Non ci piove. E sono, sì, oltre ad essere ovviamente bravi musicisti, sono anche molto gentili. E sì. Abbiamo fatto anche la foto assieme. Se posso dire una cosa, io praticamente ero sotto il palco e li guardavo mentre facevano il soundcheck e dicevo, ma questi qua suonano come ragazzi da 15 anni. Sì, sì, effettivamente. Paurosi, tiro... Cioè, loro facevano il soundcheck, pareva che suonavano davanti a 10.000 persone. E che batterista, mi sembra anche abbastanza. Non so, era malato, aveva qualche problema, ma. Sì, alla faccia che era su. Malato. È il metal che ti tiene giovane. Esatto. Sì, sì. Chiudiamo allora la seconda parte con i Samson, la prima band in cui militava Bruce Dickinson. Si distingueva, oltre per il grande vocalist poi nei Maiden, anche per il batterista Thunderstick, che indossava una bizzarra maschera sadomaso nei concerti. Dal disco Head On 1980 e il brano Hard Times. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con i Dial Maze, che ci faranno ascoltare sei brani dal disco Fight the Black Sun. Non mancate!